Altri suoni con Angelica, rientrando in diretta alle 7:46 minuti di questo martedì 17 settembre. Imprevedibile come il tema di Altri suoni, come i percorsi di una rassegna che dà un'attenzione particolare alla creatività, all'ascolto, all'aspetto che in maniera olistica va a comprendere diverse micro e macro sensazioni. Sapete bene come sono termini che mi appartengono nell'interpretazione artistica. Il Centro di Ricerca Musicale San Leonardo, il teatro che sarà sede per gran parte della programmazione, undicesimo anno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024. Allora, per quanto riguarda l'inizio e la partenza, sarà sabato 28 settembre. Magari riusciamo a tirare giù dal letto Andrea Grillini, batterista, per l'ideazione, la produzione delle musiche nella formazione Bad Walk. Ma iniziamo la conversazione col direttore artistico Massimo Simonini per quanto riguarda Angelica. Per queste parole subito ho avuto l'immagine di un film che non ha avuto grande successo, La profezia dell'uomo falena. È questa figura immensa, quest'uomo dotato di ali con questi occhi rossi molto forti e intensi che, ovvio, nell'immediato fa paura, ma in realtà era una creatura che era arrivata per portare attenzione, aiuto, per scongiurare pericoli, proprio dal titolo Profezie. Aveva anche questo potere, cioè di poter anticipare quello che sarebbe stato un evento nefasto, solo che con la sua presenza, come vi ho descritto, non certo di bellezza accattivante, portava nell'immediato qualcosa di preoccupante. Però, come vi ho detto, le sue intenzioni, grazie a questi poteri, non erano di certo cattive, anzi, grazie alle sue profezie riusciva a anticipare aspetti negativi e scongiurarli. È certo che l'umano che vede una tale figura non è nell'immediato attratto, se non che per le particolarità tra uomo e insetto. Perché mi è venuta in mente questa immagine? Perché non è una parola d'ordine, come dirà Massimo Simonini, o la parola filo conduttore, è più una sensazione quella che darà il via a questa parte di stagione. Angelica, Centro di Ricerca Musicale, stagione 2024-2025, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ed è semplicemente: siamo insetti. Guarda, l'idea era quella di inventarsi degli insetti inesistenti. Sai come arrivano le idee? Non sai neanche bene il motivo. Poi dopo definisci tutto e ti fai un quadro, un'idea più complessiva che prima magari non avevi nemmeno. E quindi poi mi sono detto: chissà cosa sentono gli insetti, come vedono gli insetti, come vedono gli eventuali giganti che sono gli esseri umani. Come così, e poi perché insomma la musica di ricerca contemporanea resta in qualche modo, e direi a questo punto anche un po' volutamente in secondo piano per tutto il meccanismo musicale istituzionale italiano, perché all'estero è un altro mondo, e quindi mi viene da dire restiamo anche piccoli. Restiamo piccoli anche volentieri, seppure che qualche volta crea anche un po' di insofferenza e di frustrazione, perché comunque intorno sembra che non riesce a essere non pienamente compreso, ma è come che tu nel senso di facciamo noi, che non siamo in qualche modo allineati a una corrente musicale, a quello, a quello là. Il comunale fa solo musica dei morti, nel senso che i compositori viventi, le commissioni sono scomparse, e oppure sono proprio dopo 3.000 anni, siamo ancora qui a parlarne. Non dovremmo nemmeno parlarne, dovremmo avere superato completamente Quindi se parliamo di musica, parliamo di musica. E parliamo di musica vuol dire, nel nostro caso, che siamo un centro di ricerca musicale e ci occupiamo di musica di viventi e di ricerca contemporanea, vuol dire cogliere la creatività che sta scorrendo, le direzioni che prende la musica, dove andiamo, dove stiamo andando, cosa contiene quella musica? È solo roba consumata o c'è qualcosa che ci dice qualcos'altro che ci aiuterà per? E poi lo dico da ascoltatore anche di cose che io ascolto Ornette Coleman che non c'è più, ascolto tante cose di compositori, di musicisti che non sono più tra noi, anzi ci sono ancora. Perché? Perché hanno fatto dei discorsi, hanno avuto esperienze creative che hanno lasciato il segno. A tale proposito, ringraziando il direttore artistico Massimo Simonini, ho voluto portare un brano da questo disco meraviglioso, 1986, ha citato Ornette Coleman, eccolo qui in Song X, un disco che ha prodotto insieme a Pat Metheny, 1986. Siamo insetti, creare una sorta di concreta mitologia del piccolo, di un piccolo che diventa grande, di un piccolo che può apparire, come ho citato l'uomo falena, qualcosa che sul momento può lasciare preoccupazione, anche spavento, ma che è lì per aiutare con la profezia, con l'essere avanti. Quindi questa parola d'ordine, che parola d'ordine non è un motto, come appunto ha precisato Massimo, siamo insetti, è attinente alla stagione che sta prendendo il via, una stagione che sta prendendo il via, e sarà il 28 settembre 2024, riprenderemo anche magari con un last minute nell'avvicinarsi alla data che ho appena riportato, con Bad Walk. Andrea Grillini alla batteria, Leonardo Rizzi al pianoforte, Federico Pierantoni al trombone, Nazareno Caputo al vibrafono e conclude Vincenzo Vasi alla voce, al theremin. Le musiche sono di Andrea Grillini e del collettivo Bad Walk stesso. Vediamo se riusciamo a intercettare il nostro Andrea Grillini, che già abbiamo conosciuto in altre formazioni. Intanto ascoltiamo un brano, Lateless, e poi torniamo in diretta. A tra poco. 7:57 minuti è suonata la sveglia per Andrea Grillini per portare anticipazione a quello che sarà il primo appuntamento con il collettivo Bad Book, di cui stiamo ascoltando appunto questo brano Lateless. Buongiorno caro Grillo, benvenuto. Buongiorno a tutti, che bella sveglia, pazzesca, sono già carico, guarda. Ti aspettavi di trovare la sveglia con un tuo brano, tra l'altro? No, poi, ma guarda, è la cosa più bella che può capitare a un artista, un musicista. E vedi, è così, punti la radio. Poi tra l'altro, no, mi sono girato, ho preso il telefono e ti ho risposto subito, capito? Non, certo, è che non ero sveglia, non ho suoneria. Non sei stato questa così. È una connessione intergalattica, mentale, capito? Mentale, sì, telepatica. Anche quasi fisica, per la mano che prende il telefono così a caso. Beh, quanti contenuti vedi che in Angelica si va a snocciolare. Oltre è un'improvvisazione anche tra la mia mano e il telefono, raggiungere il telefono. È un'improvvisazione fisica che si va a unire. Fisica, a... è quasi fisica. Metafisica. Metafisica e metà mentale. Ecco. Metà mentale, esatto. Bad Walk, allora, che crescita che ha avuto questo progetto, insomma? Ci puoi dire qualcosa di più, Andrea? Allora, il progetto praticamente il 28 sarà, diciamo, in una nuova veste, con due elementi nuovi, che uno è Vincenzo Vasi, che lo conoscete tutti quanti molto bene, e l'altro è Nazareno Caputo, che è un vibrafonista toscano. Tutti i pezzi, diciamo così, sono stati ricomposti e riarrangiati, e ci sono state aggiunte delle altre parti dove, insomma, le, sì, cercheremo di inserirle improvvisando, diciamo così. Non si dovrà capire qual è la cosa scritta e la cosa improvvisata, il discorso è sempre più o meno quello. Infatti vi ho ascoltato, ho apprezzato molto il lavoro per Serico Tonale al Torrione, e ora quando ho visto la formazione nella partenza di Angelica ho visto, ma qui siamo aumentati in famiglia. Siamo aumentati, ragazzi. Ho detto, e comunque si sta anche bene, voglio dire, questa cosa, certo, qua, perché con Vincenzo si esplorano dei mondi pazzeschi, incredibili. È un musicista, Vincenzo, che ha una sensibilità unica e ha dato una svolta veramente notevole al progetto. Ha portato avanti una crescita con queste sonorità, oltre che di struttura molto colta. Andrea Grillini, poi non perdo mai occasione di dire, al di fuori della costruzione musicale o dal concerto, è una persona assolutamente cordiale, conviviale, da compagnia. E dici, ma come può fare musica sperimentale, che è così una persona... Ti immagini il musicista sperimentale un po' cupo, un po' distratto, un po' così? No, Andrea è il compagno di cena che vorresti sempre, perché non c'è mai motivo per annoiarsi o per perdersi nelle lucubrazioni, e se ci si perde non sono certamente meste, anzi tutt'altro, come potete ben sentire da questa conversazione. Allora, grazie. La tua produzione con queste nuovi elementi, ecco, come ti sei riuscito a intersecare nel dialogo con le figure di Vincenzo e Nazareno, Andrea? Sostanzialmente ho ascoltato le necessità, okay, perché un musicista che scrive per le persone con cui suona non è, diciamo così, cioè è necessaria questa cosa, questa evoluzione. Cioè, piacevolmente necessaria. Sì, perché io posso scrivere le cose che mi vengono in mente, ma in realtà uno deve scrivere e sublimare le cose che gli vengono in mente, in parallelo deve capire per chi le sta scrivendo. Sì. Quindi fondamentalmente ho fatto anche un lavoro di riarrangiamento per Vincenzo e per Nazareno. Un'empatia artistica, musicale, una disponibilità nel mettersi a confronto per portarli insieme di suono e di musica. Ci vuole anche quello, anche perché Nazareno... Ma è importante, Sì, Nazareno... Ma sì, perché devi sapere bene come puoi sfruttare, diciamo così, le capacità di un musicista, perché non basta la tecnica, non basta... insomma la conoscenza armonica, ma devi capire cosa ti può dare di più. Sì, certo. E intanto che ci avviciniamo al 28 settembre avremo modo di ritrovare questa conversazione anche nel Last Minute per il nostro rapporto con Angelica e il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. E io ti ringrazio tantissimo. Ma grazie a voi, guarda, per questa sveglia che alla fine poi è stato in qualcosa di piacevole, vedi? È stato bellissimo, è stato bellissimo, fantastico. Bellissimo è parlare con te e ascoltare la tua musica. Grazie Andrea, ti auguro grazie una buona giornata. Ci vediamo il 28 settembre allora, certo, ad Angelica. Certo. Buona giornata. Grazie mille, ciao Andrea. Bella questa narrazione musicale con Federico Pierantoni al trombone, Leonardo Rizzi al pianoforte elettrico, Andrea Grillini alla produzione batterie ed elettronica e poi l'arrivo di Vincenzo Vasi, voce Termin, Nazareno Caputo al vibrafono e marimba. Bad Walk darà il via alla stagione, undicesimo anno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, Angelica, Centro di Ricerca Musicale, Teatro San Leonardo a Bologna. A tra poco per procedere con la nostra prima colazione in diretta e il Move to Groove. Buon ascolto! Thank you.